L'ho capito benissimo, perché quando suona il campanello della porta, lui corre subito. È evidente che la sta aspettando e ogni volta leggo la delusione nei suoi occhi. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Susanna Mancinotti, Il miglior amico delle donne, storie e segreti di cani straordinari e delle loro padrone. Sonzogno, 192 pagine, 16 euro. Si diffonde la moda dei cani tascabili, piccoli cuccioli da esibire come fossero giocattoli. Ma è un gioco pericoloso, visto che, a quanto pare, ci si stanca facilmente di questi minuscoli amici. Più che un cane, un accessorio. Tanto che a Miami, dove la moda è in pieno corso, gli uomini lo portano al posto della pochette nel taschino della giacca. Le donne, Paris Hilton insegna, affacciato dalla borsetta. Il cane toy, alto 10 cm, un chilo di peso, fa inorridire gli animalisti, ma piace tanto alle signore. Ora anche a certe italiane disposte a tutto, pur di farne arrivare un esemplare dalla Florida, dove c'è il più grosso allevamento del mondo, il Puppy Store. L'organizzazione è minuziosa fin nei minimi dettagli. Per una cifra che va dai 1.000 ai 5.000 euro, il cane bonsai viene spedito in aereo con microchip, prima vaccinazione e pedigree. Al momento dell'acquisto online occorre pagare subito con carta di credito. Sull'onda americana, anche nel nostro paese sono arrivate centinaia di richieste e sorti una decina di allevamenti, più modesti del modello USA. Il cane toy, sia esso Yorkshire, Maltese, Pomerian o Bulldog, non piace ai veterinari. Dice Federico Coccia, sono fragili sia fisicamente sia psicologicamente, creati selezionando il cane più piccolo della cucciolata fino ad arrivare a esserini tascabili, vivono in simbiosi con il padrone. Sono un prolungamento del proprietario. Non è un caso che dopo i primi entusiasmi, da Londra arrivi il primo allarme dallo storico rifugio Battersea Dogs and Cats Home. Il 40% dei cani abbandonati sono proprio loro, i microquadrupedi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Romana Liuzzo, La moda idiota dei cani tascabili, da Panorama del 31 ottobre.